Fu forse perché recitavamo, secondo la figura descritta dalla rivoluzione di un solido, una scena che invertiva quella di Balbec, ed ero io a trovarmi coricato mentre lei, in piedi, poteva schivare un attacco brutale e dirigere il piacere a modo suo, che Albertin mi lasciò prendere con tanta facilità ciò che un tempo mi aveva rifiutato con così severo cipiglio, cipiglio dal quale, certo, l'espressione voluttuosa assunta oggi dal suo volto all'appressarsi delle mie labbra non differiva che per una deviazione infinitesimale di linee in cui, tuttavia, può stare intera la distanza intercorrente fra il gesto d'un uomo che finisce un ferito e quello di chi lo soccorre, fra un ritratto sublime e uno raccapricciante. Senza sapere se dovessi rendere merito e tributare gratitudine del suo mutato atteggiamento a qualche benefattore involontario che nei mesi precedenti, a Parigi o a Balbec, avesse lavorato per me, pensai che la nostra reciproca posizione costituisse la ragione principale del mutamento. La stessa Albertin, però, ne addusse un'altra, precisamente la seguente. «Ah, il fatto è che quella volta, Balbec, non vi conoscevo. Potevo supporre che aveste cattive intenzioni». Questa motivazione mi lasciò perplesso. Albertin, nel fornirmela, era senza dubbio sincera. Una donna fa tanta fatica a riconoscere nei movimenti delle sue membra, nelle sensazioni provate dal suo corpo durante un incontro a quattro occhi con un compagno, l'ignota colpa in cui paventava che un estraneo premeditasse di farla cadere. In ogni caso, qualunque fosse la natura delle modificazioni intervenute da qualche tempo nella sua vita, e tali forse da spiegare come mai Albertina avesse così facilmente accordato al mio desiderio momentaneo e puramente fisico quel che a Balbec aveva rifiutato con disgusto al mio amore, un cambiamento ancora più sbalorditivo si produsse in lei quella stessa sera, non appena le sue carezze mi ebbero condotto alla soddisfazione di cui certo s'avvide e che io temetti, anzi, potesse provocarle il piccolo moto di repulsione e di pudore offeso avuto da Gilberte in un momento analogo, dietro il boschetto di Laurie e Champs-Élysées. Accadde esattamente il contrario. Già nel momento in cui l'avevo fatta sdraiare sul mio letto e avevo cominciato ad accarezzarla, Albertina aveva assunto un atteggiamento che non le conoscevo, di buona volontà docile, di semplicità quasi puerile. Cancellando dal suo volto ogni abituale pretesa o preoccupazione, l'attimo che precede il piacere, simile in questo all'attimo che segue la morte, aveva, per così dire, restituito ai suoi tratti ringiovaniti l'innocenza della prima età. In effetti, ogni persona il cui talento venga messo improvvisamente in gioco diventa modesta, diligente e incantevole, soprattutto se, grazie a questo talento, sa darci un grande piacere, ne è a sua volta felice e vuole darcelo davvero completo. Ma nella nuova espressione di Albertin c'era qualcosa di più del disinteresse e della coscienza, della generosità professionali. Una sorta di dedizione convenzionale e repentina. E non era solo alla propria infanzia, ma più in là, alla giovinezza della sua razza che aveva fatto ritorno. Ben diversa da me, che non avevo desiderato niente di più di un appagamento fisico, infine ottenuto, Albertin sembrava convinta che sarebbe stato, da parte sua, in un certo senso grossolano credere che il piacere materiale non fosse accompagnato da un sentimento morale e segnasse la fine di qualcosa. Lei, che poco prima aveva tanta fretta, adesso, sicuramente perché pensava che baci implicano l'amore e che l'amore prevale su ogni altro dovere, quando le ricordavo il suo pranzo rispondeva: Ma via, cosa volete che mi importi? C'è tutto il tempo. Sembrava che provasse imbarazzo ad alzarsi subito, così dopo quello che aveva fatto. Un imbarazzo da buona creanza, un po' come Françoise che quando, pur non avendo sete, si era sentita in dovere d'accettare con decente gaiezza il bicchiere di vino offertole da Jupien, non avrebbe poi osato andarsene appena bevuto l'ultimo sorso, per quanto imperioso fosse il dovere che la richiamava. Albertine, ed era forse questa, assieme a un'altra che vedremo in seguito, la ragione che, a mia insaputa, mi aveva spinto a desiderarla, era un'incarnazione della contadinella francese, il cui modello in pietra è visibile a Saint-André-des-Champs. Di Françoise, che peraltro sarebbe presto diventata la sua mortale nemica, riconobbi in lei la cortesia verso l'ospite e lo straniero, la decenza, il rispetto dei livelli sociali. Françoise, che dai tempi della morte di mia zia credeva di potersi esprimere solo in tono dolente, nei mesi che precedettero il matrimonio di sua figlia, avrebbe trovato sconveniente che questa, passeggiando col fidanzato, non lo tenesse a braccetto. Immobilizzata accanto a me, Albertin mi diceva: «Avete dei bei capelli, avete dei begli occhi, siete così carino». Quando, avendole fatto notare che era tardi, aggiunsi: «Non mi credete?» Lei replicò, ed era forse vero, ma solo da 2 minuti e per poche ore: «Vi credo sempre». Mi parlò di me, della mia famiglia, del mio ambiente. Mi disse: «Oh, lo so che i vostri genitori conoscono gente molto su, e voi siete amico di Robert Forestier di Suzanne Delage». Così, sul momento, quei nomi non mi dissero assolutamente nulla, ma tutta a un tratto ricordai d'avere in effetti giocato ai Champs-Élysées con Robert Forestier, che non avevo più rivisto. Quanto a Suzanne Delage, era la nipotina di Madame Blondet, e una volta avrei dovuto partecipare a una lezione di danza e persino recitare una piccola parte in una commediola allestita nel salotto dei suoi genitori. Ma il timore di un attacco di ridarella e il sangue da naso me l'avevano impedito, di modo che non l'avevo mai incontrata. Al massimo mi era parso un giorno di capire che l'istitutrice col pennacchio degli Swann era stata in casa dei suoi genitori, ma forse si trattava solo di una sorella di quell'istitutrice oppure di un'amica. Feci presente ad Albertine che Robert Forestier e Suzanne Delage occupavano ben poco spazio nella mia vita. Può darsi, le vostre madri sono in relazione, per questo vi si colloca in un certo modo. Incrocio spesso Suzanne Delage in Avenue de Messine, è una ragazza che ha classe. Le nostre madri si conoscevano solo nell'immaginazione di Madame Bontemps, la quale, venuta a sapere che in passato giocavo con Robert Forestier e, a quanto pare, gli recitavo dei versi, ne aveva dedotto che fossimo legati da rapporti di famiglia. Sentendo il nome di mia madre, non mancava mai, mi è stato riferito, di osservare: «Ah, sì, e il giro de Delage, de Forestier», tributando ai miei genitori un onore cui non avevano alcun diritto. Del resto, le nozioni sociali di Albertine erano incredibilmente stupide. I Simonnet, con 2 N, lei li riteneva inferiori non soltanto ai Simonet con una N sola, ma a qualsiasi altra persona. Che qualcuno porti il vostro stesso nome senza appartenere alla vostra famiglia è un'eccellente ragione per disprezzarlo. C'è, ben inteso, qualche eccezione. Può darsi che 2 Simonet, presentati l'uno all'altro in una di quelle riunioni durante le quali si cede al bisogno di parlare per parlare e d'altra parte ci si sente fortemente inclinati all'ottimismo, per esempio in un corteo funebre diretto al cimitero, accorgendosi di avere lo stesso nome, cerchino con reciproca benevolenza e senza alcun risultato di scoprire se non abbiano qualche rapporto di parentela. Ma è solo un'eccezione. Molti uomini sono poco rispettabili, ma noi non lo sappiamo e non ce ne curiamo. Ma se, a causa dell'omonimia, ci arriva qualche lettera destinata a loro o viceversa, cominciamo a diffidare, spesso a buon diritto, del loro valore. Temiamo confusioni, le preveniamo con una smorfia di disgusto se qualcuno ci parla di loro. Quando leggiamo il nostro nome attribuito a loro nel giornale, ci sembra che l'abbiano usurpato. I peccati degli altri membri del corpo sociale ci lasciano indifferenti. Ne facciamo ben altro carico ai nostri omonimi. L'odio che nutriamo nei confronti degli altri Simonnè è tanto più forte in quanto non è individuale, ma si trasmette ereditariamente. In capo a due generazioni, quel che ricordiamo è solo la smorfia insultante dei nostri nonni verso gli altri Simonnè. Ne ignoriamo la causa. Non ci stupiremmo se venissimo a sapere che all'origine c'è un assassinio. Questo sino a quando, caso tutt'altro che raro, tra una Simonnè e un Simonnè che non sono affatto parenti, la vicenda finisce in un matrimonio. Non soltanto Albertin mi parlò di Robert Forestier e di Suzanne Delage, ma spontaneamente, per quel dovere di confidenza che scaturisce dall'intimità dei corpi, perlomeno in avvio, nel corso di una fase iniziale e prima che ne derivino una speciale duplicità e il segreto nei confronti di quella stessa creatura, mi raccontò, a proposito della sua famiglia e di uno zio di André, una storia su cui a Balbec si era rifiutata di dirmi alcunché. Ormai pensava di dover dimostrare che non aveva più con me il minimo segreto. Se la sua migliore amica le avesse sussurrato qualcosa contro di me, adesso lei si sarebbe fatta un obbligo di riferirmelo. Insistetti perché tornasse a casa. Finì con l'andarsene, ma così confusa, per me, della mia rozzezza, che quasi, per scusarmi, le veniva da ridere, come una padrona di casa che ci vede arrivare in giacchetta e ci accetta così, ma non certo con indifferenza. «State ridendo?» le chiesi. «Non rido, vi sorrido», rispose con tenerezza. «Quando vi rivedrò?» aggiunse, come se per lei fosse inconcepibile che ciò che avevamo fatto, costituendone di solito il coronamento, non costituisse almeno il preludio di una grande amicizia, di un'amicizia preesistente che spettava a noi stessi scoprire, confessare e che offriva l'unica possibile spiegazione di ciò a cui ci eravamo abbandonati. «Adesso che ho la vostra autorizzazione, appena potrò ve lo farò sapere». Mi mancò il coraggio di dirle che subordinavo tutto alla possibilità di incontrare Madame de Stermaria. «Sarà all'improvviso, purtroppo, non lo so mai in anticipo», soggiunsi. «Sarebbe possibile avvertirvi di sera quando fossi libero?» «Possibilissimo, perché presto avrò un ingresso indipendente da quello della zia, ma per il momento è impraticabile. Comunque proverò a venire domani o dopodomani pomeriggio. Mi riceverete soltanto se potrete». Arrivata alla porta, stupita che io non l'avessi preceduta, mi tese la guancia, pensando che non ci fosse nessun bisogno di un grossolano desiderio fisico, adesso, per baciarci. Poiché i brevi rapporti che avevamo appena avuti erano di quelli cui talora conducono un'intimità assoluta e una scelta del cuore, Albertin si era sentita in dovere di improvvisare e aggiungere momentaneamente ai baci che ci eravamo scambiati sul mio letto il sentimento di cui essi sarebbero stati il segno per un cavaliere e la sua dama secondo la concezione di un menestrello gotico. Uscita la giovane Piccarda, che l'artista di Saint-André-des-Champs avrebbe potuto scolpire nel suo portale, Françoise mi portò una lettera che mi inondò di gioia, giacché veniva da Madame de Stermaria, la quale accettava di pranzare con me mercoledì. Da Madame de Stermaria, e dunque, per me, più che dalla reale Madame de Stermaria, da quella a cui avevo pensato tutto il giorno prima che arrivasse Albertin. Questo è il terribile inganno dell'amore, che comincia col farci giocare, anziché con una donna del mondo esterno, con una sorta di bambola interna al nostro cervello, la sola, d'altronde, che abbiamo sempre a nostra disposizione, la sola che potremo possedere e che l'arbitrio del ricordo, poco meno assoluto di quello della fantasia, può aver resa tanto diversa dalla donna reale quanto la Balbec del sogno lo era stata, per me, dalla Balbec della realtà. Creazione fittizia, cui gradualmente, per la nostra sofferenza, costringeremo la donna reale ad assomigliare. Albertine mi aveva fatto fare talmente tardi che, quando arrivai da Madame de Villeparisis, la commedia era finita e, non avendo voglia di fendere in senso inverso la calca degli invitati che defluiva commentando la grande notizia, la separazione che si diceva già venuta fra il duca e la duchessa di Guermantes, mi ero seduto, in attesa di poter salutare la padrona di casa, su una bergère vuota nel secondo salotto, quando dal primo, dove evidentemente aveva occupato un posto di primissima fila, vidi sbucare, maestosa, ampia e alta in un abito lungo di raso giallo cui erano applicati in rilievo enormi papaveri neri, la duchessa. Vederla non mi creava più alcun turbamento. Un certo giorno, imponendomi le mani sulla fronte, come era solita fare quando temeva di rattristarmi e dicendomi «Non devi insistere con quelle tue uscite per incontrare Madame de Guermantes, sei la favola della casa. E poi vedi, la nonna sta così male, hai davvero cose più serie da fare che appostarti sulla strada di una donna che ti prende in giro». Di colpo, come un ipnotizzatore che vi fa tornare dal paese lontano dove immaginavate di trovarvi e vi riapre gli occhi, o come il medico che, richiamandovi al sentimento del dovere e della realtà, vi guarisce da un male immaginario nel quale vi stavate crogiolando, mia madre mi aveva risvegliato da un sogno troppo lungo. Il giorno seguente era stato consacrato allo sforzo di congedarmi definitivamente dal male cui abdicavo. Per ore e ore, piangendo, avevo cantato l'addio di Schubert. Addio, da voce estranea sei chiamata, lungi da me, celeste sorella degli angeli.